Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Roma, 29 marzo 2010. Arrestato un carabiniere per la morte del pusher dello scandalo Marrazzo. Fu la prima vittima. Il 20 novembre 2009, la seconda. Trovata morta in via Due Ponti, la trans Brenda. Non c'era luce. Parcheggiò. La macchina sulla destra a un isolato di distanza. Scese e chiuse. Statura media, jeans, giubbotto, capelli scuri. Un anonimo nessuno. Via Due Ponti era deserta. L'orologio gli disse le 3:30. Camminò dritto verso il seminterrato senza affrettarsi e alzò gli occhi. Il sovrapporta di vetro era scuro. Dentro non c'era luce. Infilò i guanti, prese la chiave e aprì. Chiamò. Una, due volte. Si fermò ad ascoltare. Silenzio. Il saggio aveva ragione. Quello che aveva versato al quick nel bicchiere del trans era efficace. Accese la torcia e guardò il disordine che lo circondava. Il cuscinotto era invaso dalle stoviglie. Sopra il tavolo una bottiglia di whisky quasi piena e il portatile acceso. Lo spense, lo prese e continuò il suo giro. Il bagno era minuscolo. Doccia, water, bidet e lavandino. Chiuse il tappo, ci mise dentro il computer, aprì il rubinetto e fece scorrere l'acqua fino a riempirlo. Lasciò bene in vista le gocce di Minias. Tornando indietro, raccolse al volo la bottiglia. Poi, illuminando i gradini, si arrampicò sulla scaletta del soppalco. Brenda dormiva come un sasso, rivolta verso di lui. La scosse, le puntò il raggio in faccia, mugolò in rosa girandosi dall'altra parte. Il Minias aveva funzionato a dovere, il saggio aveva fatto un buon lavoro. Ora cominciava il suo. La borsa era appoggiata accanto al materasso, l'afferrò e la capovolse. Rossetto, Kleenex, pinzette, caramelle e preservativi si sparpagliarono disordinatamente, l'ignorò. E invece ripulì il portafogli da fogli, foglietti e quanto c'era, lasciando documenti e denaro. Poi afferrò i cellulari e se li mise in tasca. Due grosse valigie erano allineate di fianco al materasso. Brenda doveva usarle come cassettoni. Rovesciò a terra il contenuto della prima, calze, magliette e biancheria costosa, da puttana. Svuotò la bottiglia sopra gli indumenti, poi aprì lo zippo e l'accese. Lo lasciò cadere sopra un body leggero con letrine. La fiammella si smosse tra la seta, allungandosi timidamente, poi si lanciò vorace, cominciando ad assaporare il tessuto. Prendeva forza. Era ora di andarsene. Scese rapidamente, raggiunse la porta, uscì, richiuse dietro di sé e si avviò tranquillamente verso la macchina. Mise in moto e fece la manovra in due tempi per tornare da dove era venuto. Quando passò davanti alla casa di Brenda, rallentò girando la testa. Si vedeva luce sopra la porta. Accelerò e mise la terza. Patrizia De Bicche van der Noot in libreria con L'uomo dagli occhi glauchi. Corbaccio editore, 295 pagine, 18,60 euro.